Radio Gioventù in Azione. Benvenuti a tutti i radioascoltatori. Eccoci alla prima puntata del nostro appuntamento settimanale Giovani in Azione, la rubrica che vi terrà compagnia per 2 mesi per parlare insieme delle opportunità europee per viaggiare, lavorare e conoscere un po' più le istituzioni europee. Parleremo dei programmi rivolti ai giovani con tanti ospiti. La rubrica andrà in onda ogni giovedì alle 18 e in replica alle 23. È promossa dallo sportello Giovani per l'informazione e l'orientamento del distretto sociosanitario D2 che oggi vogliamo presentarvi. Io sono Anna Maria Ciappa e vi terrò compagnia con tanti ospiti per parlarvi di giovani e Europa. Insieme ai realizzatori del progetto che si rivolge a tutti i giovani e le famiglie dei comuni di Alessandria della Rocca, Vivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina. Oggi ospitiamo Antonio Di Liberto, direttore generale dell'Unione degli Assessorati, che gestisce da diversi mesi lo sportello Giovani. Radio Libriamoci Web. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Caro direttore, benvenuto. Perché uno sportello giovani? Benvenuto a te, benvenuto ai giovani dei comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, Vivona, Santo Stefano di Quisquina, San Biagio Platini, ma benvenuti ai giovani che ci ascoltano. Perché uno sportello giovani? Io penso che in questa società che necessita sempre più di punti di riferimento, soprattutto per i giovani, avere uno sportello giovani nel proprio territorio, averlo soprattutto in provincia di Agrigento, nell'entroterra della Sicilia, diventa un'occasione di opportunità, di sviluppo territoriale, un'occasione di confronto con quelle che sono le vere tematiche europee. Oggi l'Europa è vista come l'Europa della moneta unica, è vista come l'Europa che crea problemi, che ha problemi di coesione sociale. E allora uno sportello giovani è la presenza vera, viva, vissuta su un territorio di quella che è l'Unione Europea. Abbiamo portato un pezzo di Europa nel centro del territorio siciliano. Cosa offre e a chi è destinato? Cosa offre? Offre tutta una serie di servizi che vedremo durante questa trasmissione. È destinato principalmente ai giovani, ma è destinato alle famiglie. Destinato a tutti quelli che in un modo o nell'altro vogliono veramente sentirsi cittadini europei. Pensate che grazie a questo sportello, grazie all'antenna Eurodesk che abbiamo portato dentro il comune di Vivona, ecco, lo sportello giovani è un pezzo delle istituzioni comunali che si fanno veramente vive, concrete, vicine ai cittadini e in questo caso ai giovani. È un pezzo dell'Europa perché l'Eurodesk è un'antenna della Commissione Europea che crea, che avvicina e dà opportunità ai giovani. Cosa fa di concreto? Di concreto è questa è una rete europea, quindi collegata con le altre città d'Europa, consente ai giovani di essere a conoscenza in tempo reale di tutte quelle opportunità che l'Europa offre loro. Come accedervi e dove si trova? E allora, lo sportello è dentro il comune di Bivona. Abbiamo fatto questa scelta strategica e istituzionale insieme alle amministrazioni di aprirlo dentro un comune, e quindi è possibile raggiungerlo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 19. È possibile anche visitare il sito, che è www.sportellogiovani.eu. Il venerdì pomeriggio rimane aperto per consentire anche agli studenti universitari che rientrano dalle sedi universitarie nelle proprie abitazioni di avere, ecco, anche in quell'occasione la possibilità di accedervi. Radio Libriamoci Web. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Cos'è stato fatto ad oggi e quali sono le opportunità per i nostri giovani? Cosa abbiamo fatto ad oggi? Abbiamo portato, dicevo, un pezzo dell'Europa a Bivona, abbiamo portato un pezzo dell'Europa a San Biagio Platoni, abbiamo portato i giovani provenienti dalla Turchia, dalla Repubblica Ceca, ad occuparsi di sport, a confrontarsi con gli altri giovani di questa parte della Sicilia su quelle che sono le tematiche sportive. Pensate che 32 giovani provenienti dagli stati diversi dell'Europa per 8 giorni sono stati a confrontarsi con i giovani di San Biagio Platini, di Bivona, di Alessandria della Rocca, di Santo Stefano di Quisquina. Questo perché è facile oggi parlare di Europa, ma se l'Europa il cittadino non la sente vicina e non ne comprende quali sono le opportunità di sviluppo, la vede sempre come una grande macchina lontana da sé. Allora, lo sportello consente da una parte di avere la mobilità in entrata da parte dei cittadini europei, quindi di venire in Sicilia, di vivere e di confrontarsi con i giovani della Sicilia, dall'altra parte consente ai giovani invece di uscire. Pensate ai giovani che da questo territorio sono andati fuori, sono andati a visitare la Bulgaria, sono andati a visitare la Romania, la Turchia, sono riusciti a confrontare con i giovani delle altre nazioni. Pensiamo a tutte le scuole, per esempio, di questo territorio, alle scuole superiori che hanno vissuto per un anno realizzando il progetto Vuoi per te, grazie sempre allo Sportello Giovani. Più di 600 giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi su quelle che sono le tematiche europee e hanno avuto poi la possibilità a Roma di simulare per un giorno quello che è il Parlamento europeo con i giovani che vengono dalle altre nazioni. E allora cosa si è creato a Bivona? Semplicemente una opportunità. I giovani devono uscire dalle proprie abitazioni, uscire da casa, spalancare le finestre e vivere l'aria europea in maniera veramente compiuta, vissuta e diversa. Opportunità che in giro vi sono. Uno spesso cerca sempre di risolvere i problemi o attraverso l'assistenzialismo o aspettando che qualcun altro gli risolva il problema. Oggi i giovani devono scommettere in se stessi e comprendere quali sono i vari strumenti che ci sono e quali sono le opportunità che l'Europa offre, e vi garantisco sono parecchie. Spesso però la cattiva informazione o la difficoltà ad approcciarsi alle tematiche europee non gli consente di coglierne in pieno tutti quelli che sono gli sviluppi. Radio Libriamoci Web. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Direttore, per concludere, di un messaggio ai nostri giovani. Vorrei trasmettere non un messaggio di speranza, i giovani non hanno bisogno di messaggi di speranza, vorrei però trasmettere un messaggio di concretezza. Avete su un vostro territorio un'opportunità, vivetela, informatevi, utilizzate le opportunità, uscite dalle vostre case, dai vostri territori e andate in giro per l'Europa. Lo sportello Eurodesk, lo sportello Giovani offre l'opportunità della mobilità tra i giovani e per i giovani. Mobilità significa consente loro di spostarsi, comprendere e incontrare i giovani che vivono dall'altra parte del continente europeo. Questo crea sviluppo territoriale, crea sviluppo della personalità, crea sviluppo del proprio curriculum professionale, ma crea soprattutto la possibilità di confrontarsi con altri giovani. Ecco, vi racconto questa brevissima esperienza di tipo personale. Alcuni giovani hanno avuto la possibilità di incontrarsi e di anche confrontarsi con altri giovani provenienti dall'altra parte dell'Europa e hanno deciso di rimanere, per esempio, a vivere in Belgio e a lavorare in Belgio. Questo è stato possibile grazie allo sportello, grazie all'iniziativa Eurodesk. Gli adulti devono comprendere che devono essere credibili nei confronti dei giovani. Oggi troppo spesso si sente dire che i giovani devono prendere le decisioni e devono consentire di creare nuove opportunità in maniera spesso anche, diciamo, autonoma. Devono però saper cogliere quelle che sono le occasioni che l'Europa gli consente di avere, e questa sicuramente è una nuova occasione. Radio Libriamoci Web. Ringraziamo Antonio Di Liberto, direttore generale dell'Unione degli Assessorati. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 18. Radio Gioventù in Azione.